Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi raccontiamo una storia incredibilmente attuale, perché nello scenario al quale stiamo assistendo il delitto è diventato spettacolo, è diventato oggetto di racconti dalla televisione al web e soprattutto è il mondo della giustizia sommaria. E quando si parla di omicidi, di stupri per esempio, tutti si lasciano andare a descrivere i particolari che indignano e che incuriosiscono e creano quell'attenzione morbosa che rende le storie così interessanti con tanto di audience e ricavati pubblicitari. E naturalmente il centro di tutto è il tentativo di scoprire il colpevole, soprattutto se è il colpevole di delitti efferati, soprattutto se è il mostro, e anche qualsiasi giallo che si rispetti è alla ricerca del mostro. E chi descrive la realtà in realtà dovrebbe passare attraverso una narrazione consapevole e responsabile dei fatti, e invece non sempre si va alla ricerca della realtà. E infatti, se il finale è diverso da quello che ci aspettavamo, cioè se il mostro non è realmente il mostro, questo per lo spettacolo insomma non è un fatto grave. Ma lei chi è, scusi? La vedo spesso al giornale. Ci passo per raccogliere notizie per il mio lavoro. Sono Giro Limoni. Come? Giro Limoni. Giro Limoni. Brutto, eh? Giro Limoni, il mostro di Roma. E infatti così si chiama il film di Damiano Damiani, girato nel 72 con un grande Nino Manfredi. Bene, oggi noi vogliamo cercare a nostro modo di rendere giustizia a quest'uomo che ha subito un colpo d'ala del destino veramente terribile, e noi raccontiamo la sua storia. È un uomo accusato di crimini orrendi, ripugnanti nei confronti di 7 bambine piccolissime, distrutto dall'opinione pubblica e dai giornali. È la vera storia di un mostro sbattuto in prima pagina, pur essendo innocente. Pensate che la sua è stata una vicenda che ha colpito così profondamente l'immaginario popolare che per molti anni accusare qualcuno di essere un Giro Limoni equivaleva a dargli del pedofilo, dell'assassino. E c'è un'origine nei fatti, ma è un'origine confusa nei ricordi delle persone. Giro Limoni affonda le sue radici, questa storia, in una vicenda accaduta a Roma nell'Italia fascista degli anni 20, all'epoca del delitto Matteotti. I giornali di allora intitolavano il mostro infame. Peraltro, fin dal principio della sua vita, l'esistenza di Gino Giro Limoni è segnata da una fatalità infausta, perché la sua identità, quella con la quale un giorno sarebbero stati indicati i pedofili e gli assassini, ha origine con una sigla NN, nomen nescio, ovvero non nominato, una dicitura che ancora oggi si utilizza per quei bambini che non vengono riconosciuti dal padre. Così il bambino prende il cognome della madre e diventa Gino Giro Limoni. Nasce a Roma il 1 ottobre 1889, è un figlio della vergogna e quindi si chiamerà come la madre assunta. E lei si trasferisce in Svizzera, affida il figlio a una lavandaia del nord, insomma inizia la sua vita da orfano itinerante, passa da vari istituti tra Milano, Roma, a 17 anni raggiunge finalmente la madre in Svizzera, però lei ha un nuovo compagno e 2 nuovi figli, non va d'accordo col patrigno e decide di tornare a Roma. Lui ha un'indole versatile, una grande capacità di adattamento, è un contadino, poi diventerà operaio in una fornace, poi soldato come tutti. E così il poco più che ventenne Giro Limoni parte per la guerra in Libia e qualche anno dopo viene impegnato come bersagliere nella prima guerra mondiale, va sul Carso, poi termina finalmente il conflitto e lui rientra nella sua città natale e si dedica all'attività di fotografo. E si fa strada, D'altra parte è un uomo elegante, un raffinato e un grande donnaiolo, ama la bella vita e va in giro per le vie della città con una Peugeot verde decappottabile. E a quei tempi, insomma, era veramente un vanto poter avere la macchina. E poi è un mediatore di cause per infortuni, cioè dà una mano agli operai dei quartieri popolari che hanno avuto incidenti sul lavoro, li aiuta a trovare un avvocato a far valere i loro diritti, quindi anche, come dire, un risvolto nobile. Però è un uomo che ha molte potenzialità, è un individuo brillante, è sveglio, si sa reinventare, però è anche un viveur che ha conosciuto molto dell'esistenza umana e che ne gode, ma con intelligenza, insomma con garbo, senza strafare, ha un basso profilo. Però il suo volo verrà tarpato da degli avvenimenti terribili che hanno inizio proprio nei sobborghi di Roma, dove lui trascorre le sue giornate. Il falco e il gabbiano. 31 marzo 1924, siamo in un cortile di piazza Cavour a Roma. C'è una bambina, si chiama Emma, sta giocando col fratellino. La bambinaia perde di vista per un attimo la bambina, è un attimo, e la bambina sparisce. Per fortuna la sera una signora che passa da quelle parti in un vicolo sente piangere Emma, la bambina è svestita, ha alcuni segni di violenza, un fazzoletto legato al collo, però è ancora viva. E i giornali dedicano poche righe alla vicenda perché la bambina non ha subito gravi danni fisici, insomma viene considerato un evento isolato di relativa importanza. Però all'inizio dell'estate del 24 il terrore si ripresenta. Un'altra bambina, Amanda, 2 anni, viene avvicinata da uno sconosciuto, si spaventa, si mette a urlare, il tizio scappa. Però c'è un altro episodio che purtroppo ha un esito ben diverso. Viene trovato il cadavere di una bambina di 4 anni, si chiama Bianca, la chiamano Biochetta, e il giorno dopo la sua scomparsa in un angolo in pieno centro di Roma la trovano con tracce evidenti di violenza sessuale, con il collo avvolto da una pezzuola. E adesso la paura diventa concreta, perché questo omicidio ovviamente viene riconnesso ai 2 tentativi precedenti. Federica Sciarelli, che ha dedicato un libro alla vicenda di Giro Limoni, Il mostro innocente, e le ha dedicato 3 puntate del suo programma Chi l'ha visto, descrive così l'effetto della notizia che i giornali danno il giorno dopo. Si vedeva benissimo il volto tumefatto e l'espressione sofferente, il vestitino bianco sporco e stropicciato. Senza alcun riguardo, Bianca fu messa lì in quella posizione funebre a occupare mezza pagina. E ogni persona che guardava, invece di leggere, cercava e commentava i particolari morbosi. La camicina tirata su, le braccia e le gambe nude, i capelli una volta lisci e belli, così sudati da essere appiccicati alla fronte. Eh sì, sono ancora anni in cui non c'è nessuna regola nei giornali, a parte quella della censura che si sta facendo strada, e della censura politica intendo. Per cui appare questa foto e si scatena il caos, bisogna dare subito un volto, un nome al mostro, vengono subito arrestati i primi sospetti. Intanto il 25 novembre viene rapita l'ennesima bimba, si chiama Rosina Pelli, viene ritrovato anche questa volta il suo cadavere. E in centro, vicino a una fornace, stesse modalità, stessi segni di violenza. E l'identikit descrive il colpevole come un uomo anziano, elegante, con dei baffi bianchi. Viene proposta una ricompensa, 10.000 lire, che erano una fortuna per quei tempi, a chi riesce a prendere il mostro. Però la taglia non basta per trovare lo sconosciuto. Gli omicidi si fermano, la popolazione torna a un'apparente tranquillità. Poi il 30 maggio 1925 scompare un'altra bambina, Elisa Berni, 6 anni, era andata a prendere l'acqua e il piccolo corpo viene trovato il giorno dopo vicino al Tevere, strangolata, stuprata, come era già accaduto ad Armanda, Bianca e a Rosina. E nel giro di quello stesso anno anche una bambina di un anno, Celeste, Elvira, di 6 anni. Le indagini ovviamente diventano sempre più serrate, c'è il panico in città, la psicosi, la taglia aumenta a 50.000 lire, viene offerta una promozione al poliziotto che riuscirà a arrestare questo serial killer. Era alto. Era ben vestito. Sì, era molto elegante. Avrà avuto 35 anni. No, di meno. Comunque aveva i baffi. Sì, i baffi li aveva, ne sono certa. Erano folti, a spazzola. E aveva anche un cappello. Sì, sì, mi sembra che fosse floscio nero come il cappotto. Per essere precisi, era un abito ed era color cenere. Vabbè, sì, cenere. A me sembrava un cinese. Ma va... Era alto, con un abito nero, con i baffi e correva veloce. Sì, era molto agile. Insomma, la psicosi dilaga e i sospetti si concentrano prima su un vetturino Amedeo Sterbini, poi sul sacrestano di Borgo Pio. Mestieri diversi, personalità diverse, e nessuno dei due è il vero colpevole, però... Però la pressione sociale e il peso della reputazione sono veramente dolorosi, tant'è vero che entrambi si tolgono la vita. Come mai alla fine si arriva a lui, si arriva a Giro Limoni? Cosa lo unisce agli omicidi delle bambine? Beh, la vicinanza ai luoghi dei sequestri, perché tutte le vittime scompaiono in prossimità di Piazza San Pietro e Giro Limoni abita proprio in quella zona. E quindi con questa posizione privilegiata il nostro protagonista avrebbe avuto in tutti gli episodi il tempo necessario per allontanarsi rapidamente dalle scene del crimine, magari a bordo della sua Peugeot. E proprio quella macchina che un giorno viene vista mentre segue una giovane inserviente di 12 anni. E il datore di lavoro della ragazzina è un ingegnere, sta osservando la scena dalla finestra e in effetti lui parla alla ragazzina, la scorta con la macchina, ma non è un tentativo di adescamento, perché Giro Limoni si sta informando con lei sulla moglie dell'ingegnere, con la quale probabilmente ha un flirt. E l'ingegnere è ignaro di tutto questo, come tutti i mariti in questo caso, e si mette immediatamente in contatto con la polizia. E così il brigadiere Giovanni Giampaoli comincia a indagare sull'individuo. Quando finalmente avvista il proprietario della Peugeot, non si aspetta di vedere Giro Limoni, perché i due si conoscono molto bene, hanno combattuto insieme sul Carso durante la Prima Guerra Mondiale. E qui ci sono due casi, in genere quando si vivono esperienze simili si instaura un legame profondo, tacito, un legame inossidabile, però in questo caso e invece c'era del rancore tra i due e questo diventa il motore per condannare un uomo innocente. Hai mai portato i baffi tu? No, coi baffi sembra un murino. Ma in guerra li portavi però? Sì, ma allora li portavo per spaventare il nemico. E infatti abbiamo vinto. E quanti soldi c'hai in tasca? Aio, mi ho castigato, vecchio vizietto. Ma adesso ce l'ho, quanto gli serve? Che li porti sempre nella tasca sinistra i soldi? Ma questa per me è la destra, forse è la sinistra per lei. Perché hai strizzato l'occhio? Senta, io ho anche un piccolo neo sul pancino, un po' di mal di fegato e una leggera sonnolenza post-prandium. Ma non è più semplice se mi dice che cosa vuole, altrimenti mi fa sentire quasi in colpa. Ti ricordi quella volta a Civitale? Quando passò quella bambina e tu dicesti, questa qua fra un paio d'anni sarebbe buona pure ora. Serge, adesso io ho da fare. Grazie per il caffè. E dove devi andare così di fretta? Ah, ho capito. Forse vai ad offrire delle caramelle a qualche ragazzina, eh? Il brigadiere cerca di incastrarlo anche in maniera abbastanza... grossolana, congetture improbabili basate sugli equivoci, testimonianze inattendibili. Tutto questo sta accadendo e tutto questo comincia a convincere la popolazione e anche il duce. Insomma, Roma ha bisogno di trovare un mostro, di tornare a fare sonni tranquilli e poi Mussolini deve dimostrare l'efficienza, l'impeccabilità della sua amministrazione, lo deve fare attraverso i giornali. E poi il popolo vuole poter condannare una persona fisica e non un'entità, e l'accusato soddisfa tutte le richieste. Così il 2 maggio 1927 Gino Girolimoni viene arrestato e mandato al carcere di Regina Coeli, ma soprattutto viene sbattuto in prima pagina. Il falco e il gabbiano. La storia che stiamo raccontando oggi è quella di Gino Girolimoni, un uomo distrutto dai media, dall'opinione pubblica, con una condanna morale irreversibile, un uomo che viene additato come il mostro che è dietro agli omicidi terribili che insanguinano la Roma degli anni 20. 5 bambine uccise una dopo l'altra brutalmente, altre che riescono a salvarsi. C'è sempre la violenza carnale dietro a tutti questi delitti, e la folla naturalmente ha fame di giustizia, chiede il nome del mostro. E ricordiamoci che il vero colpevole non verrà mai arrestato, ma che in quel momento, per il regime fascista, per Roma tutta, per la stampa, l'assassino è lui, Gino Girolimoni. Viene arrestato il 2 maggio 1927, è giovane e l'assassino sembrava fosse più agé, non ha i baffi e l'assassino sì, insomma non c'è nessuna prova schiacciante, non c'è nessun testimone attendibile, e nonostante questo viene mandato prima a Regina Coeli, poi in manicomio, perché è anche un NN, un figlio di nessuno, e questi individui, secondo un'altra ignobile credenza dell'epoca, sono predisposti a diventare degli psicopatici, dei degenerati, dei pervertiti. Senti, ora tu però mi devi togliere una curiosità. Io l'avrei potuto capire se tu l'avessi fatto con una ragazzina un po' più... Sai, ognuno di noi... Ma così piccola... A me piacciono piccole. Ah, sì? Anzi, più piccole sono e più mi piacciono. L'ultima, per esempio. La Piochetta. Passavo in auto, si tira sulla gonnella, mi fa l'occhiolino, io mi fermo. Come dire? Aggredita. L'ho abbracciata. La butto giù. Sull'erba? Sull'erba. E ho perso la testa. Sai, tutta nuda. Con due zinne così. Due zinne così, una bambina di 6 anni? No, una nana di 32. Ma tu mi stavi parlando della Biocchetta. No, tu parlavi della Biocchetta. Io parlavo della nana. Ti eri eccitato, eh? Ma che mi stai pigliando in giro? Semmai, in giro limoni. Intanto c'è un commissario che si chiama Giuseppe Dosi, che è l'unico in quel momento che ha un po' di buon senso, che sostiene l'innocenza di Girolimoni, che riesce a fare riaprire il caso per poter indagare più approfonditamente. Giuseppe Dosi, peraltro, è un vero protagonista dell'arte investigativa, sarà il futuro fondatore dell'Interpol, è una celebrità. Nel 25, cioè 2 anni prima, aveva sventato un attentato al Duce, cioè aveva salvato la vita all'uomo più importante del paese. Quindi nel caso di Girolimoni, Dosi, intanto lui non accetta la condanna di un innocente, trova degli ostacoli, trova il disappunto dei suoi superiori, però forse il fatto di avere salvato il Duce gli dà, come dire, una carta in più, anche se si schiera di fatto contro il regime, quindi rischia in prima persona, sostiene autonomamente le spese delle indagini e finalmente però riesce a dimostrare l'assoluta estraneità di Girolimoni, segnalando un mostro di Roma ben più plausibile. Ripeto, assoluta estraneità di Gino Girolimoni. Il rilascio avviene dopo 11 mesi, 1928. Girolimoni, secondo il pubblico ministero Mariangeli, non ha commesso il fatto, è totalmente estraneo alle vicende, non c'è neanche bisogno di un processo. Tecnicamente viene prosciolto in istruttoria. La sua vita però è finita perché la stampa ha decretato questo, perché al momento dell'arresto lui è stato sbattuto in prima pagina su tutti i giornali. Gino Girolimoni, il martirizzatore di bimbe, un trasformista prodigo e taciturno. Quando viene rilasciato non lo sa nessuno, non gli spetta nessun indennizzo, i giornali non ne parlano, la notizia è relegata in un trafiletto invisibile nella cronaca nera. Questa è una delle pagine più buie, terribili e ignobili della storia della giustizia italiana. Girolimoni intanto è isolato, non ha più un amico. Il mostro infame non può che avere un castigo: la forca o la fucilazione. La legge sulla pena capitale non prevede una punizione sommaria per questo genere di delitti, ma il sentimento di tutto il popolo di Roma, anzi di tutta l'Italia, nolentemente offeso da questa contaminazione del bruto silenzioso, domanda che ne sia fatta giustizia sommaria per lavare con la sua morte la macchia che egli ha lasciato nella onesta vita del popolo lavoratore di Roma. Non c'è niente da fare, non si torna indietro. Le donne che cadevano prima ai suoi piedi, attratte dal suo fascino di scapolo elegante, vedono in lui il mostro dipinto dall'immaginario collettivo. La macchina del fango non ha perdonato e tutti i tentativi di riscattare il suo nome, di rifarsi una vita, si rivelano fallimentari, perché la libertà di stampa non è contemplata in quel momento e nessun giornale risponde ai suoi appelli. E intanto il mostro non fa più paura, chissà, forse è morto il vero mostro. Comunque non si ripetono questi episodi e poi ci sono altre notizie di cui parlare. Insomma, Girolimoni non fa più notizia, non trova moglie, perde il lavoro di fotografo, non ne trova altri, fa il ciabattino, ripara biciclette tra i quartieri popolari a San Lorenzo, a Testaccio. Insomma, era un uomo brillante, aveva possibilità, era invidiato, ammirato, adesso è finito. Vive ancora 30 anni, ma è solo l'ombra di quello che è stato prima di subire questa terribile gogna mediatica. Ogni tentativo di riscatto viene spento. Accade proprio quello che lui non voleva, cioè la vicenda viene dimenticata. Tenta di cambiare cognome, non riuscirà mai a ottenere il riscatto che merita. Muore poverissimo il 19 novembre 1961 e al suo funerale non c'è nessuno, c'è solo il commissario Giuseppe Dosi, quello che gli ha salvato la vita, ma in realtà lo ha consegnato a una vita altrettanto terribile. E di Girolimoni rimane un cognome che nella coscienza popolare è sinonimo di pedofilia e di omicidio, e rimane una identità dimenticata e un corpo gettato in un ossario comune. E a ricostruire la storia di Girolimoni si è dedicata a Federica Sciarelli. Ha realizzato ben 3 puntate del programma Chi l'ha visto, sono andati in onda nel 2009 su Rai 3, e poi ha scritto un libro in collaborazione con Emanuele Agostini, edito da Rizzoli. Il libro si chiama Il mostro innocente. Buongiorno Federica. Ciao Enrico, buongiorno a tutti. Buongiorno. Beh, è una vicenda molto più attuale di quello che si potrebbe pensare, perché al di là di una vicenda umana tragica, immagino sia il rapporto tra media e delitto e media e indagini. Tu perché ti sei appassionata proprio a questa vicenda? Guarda, mi sono intanto, considerate che io sono di Roma, quando ho studiato il caso c'era pochissimo in giro, quindi noi abbiamo fatto una ricerca, come facciamo sempre con Chi l'ha visto, certosina, siamo andati all'archivio di Stato, all'archivio del Senato, ci hanno aiutato con tutti gli atti processuali, abbiamo scoperto tante cose. Considerate, forse è una storia molto romana, io lo dico a tutti, però considerate che a Roma, quando devi dire sei un pedofilo, sei un molestatore, certo, di ragazzi, sì, sei un Girolimoni. Ancora dici sei un Girolimoni, quindi Girolimoni, che era innocente, è rimasto nell'immaginario collettivo, comunque nei fatti, il mostro che aveva ucciso e violentato tutte queste ragazzine. In realtà, come dici tu Enrico, la storia non solo è attuale, guarda, ci ritrovi tutto, certo, con la politica, perché siamo ai tempi del fascismo, in cui la campagna elettorale era non vi preoccupate perché noi portiamo serenità, certo, sicurezza, e nelle strade non succede nulla. Certo. E quindi che cosa succede? Che a un certo punto, quando poi succedono questi delitti, bisogna mettere in carcere per forza qualcuno. La vicenda processuale, sì, è terribile, nel senso che uno, certo, l'aveva visto, quindi addirittura c'era quello che dice ma no, io l'ho visto, non stava lì quel giorno del delitto, quello lì, il testimone viene, non ti dico torturato, ma gli dicono ti leviamo il figlio, insomma tutto quello che andava a favore di Girolimoni andava buttato a male. Certo. Ti ringraziamo, sì, moltissimo. A voi, grazie. Grazie a voi. Federica. Ciao, ciao a tutti. E c'è ancora da dire sulla terribile storia di Girolimoni, perché se il colpevole non è lui e non era lui, bisogna chiedersi chi sia il vero mostro di Roma. Ufficialmente non è mai stato trovato, ma ci sono due sospettati, uno più plausibile dell'altro, entrambi inquietanti. Uno si chiama Tarquinio Tirabosca, un ortolano con dei problemi psichici, imparentato con tre di quelle vittime, che verrà internato in manicomio dopo l'arresto di Girolimoni. Quasi prudentemente internato in un manicomio, no? Per evitare guai, anche perché una volta arrestato Girolimoni, se ci fosse stato un altro delitto si sarebbe dimostrato che non era colpevole lui, no? Comunque nel film di Damiani la tesi è questa e l'ortolano risulta essere il vero mostro, perché solo un conoscente o un parente poteva prelevare una bambina dalla propria abitazione. Colpa vostra, ma dovevate sorvegliare. Avete sorvegliato? No. E allora? Che volete da me? Quando l'hai messa? Nel caletto sotto i cesti. Domattina vado alla ventina a Pia l'erba. Ma che siamo matti? Stiamo a guardare senza fa niente. Io non ci sto. Sono via a sapere la gente, ci sguardano a tutti. Ma tagliamo corto, meglio denunciarlo e buonasera. Sì, e così tutti quanti vengono a sapere che c'aveva il mostro dentro casa. E da noi non c'eri a comprare più niente nessuno, nemmeno una foglia di cicoria. No, qui si fa come dico io. E che vuoi fa? Niente. Però in quegli anni, vicino ai luoghi dei sequestri, c'è anche la Holy Trinity Church, che è una chiesa anglicana, in cui c'è un prete, un ultra sessantenne, si chiama Ralph Lionel Bridges. Dosi fa convergere le indagini nella direzione di questo religioso, perché era stato già fermato a Capri per aver importunato una ragazzina, e si scopre che anche in altri paesi nei quali il prete aveva esercitato sono stati commessi dei crimini con lo stesso modus operandi, e viene fermato il prete, viene perquisito da Dosi a Genova e poi lui parte per il Canada e finisce tutto in un nulla di fatto. D'altra parte, insomma, spostare preti pedofili è una pratica molto usata anche oggi, e da quel momento si perdono le tracce di questo religioso. E questa è una storia che deve fare riflettere tutti quelli che in televisione si occupano di televisione del dolore, che indagano sugli omicidi, quanta leggerezza e quante famiglie rovinate, non solo le vittime fisiche dei delitti, ma anche le vittime di un certo tipo di televisione. Girolimoni è un uomo che avrebbe potuto dare grandi colpi d'ala nella sua vita, però il suo percorso è stato segnato da una ingiustizia profonda che ne ha determinato il destino drammaticamente. La sua è una vita che gli è stata rubata. Nel 2015 una cittadina anonima di Roma ha messo una lapide per Gino Girolimoni nell'ossario comune del cimitero del Verano, dove ci sono le sue spoglie. È un gesto di affetto, di tardiva e piccola riabilitazione, che non può cambiare quello che è stato, però può risollevare il ricordo di questo uomo, di questo martire. Ci sono storie spesso sconosciute o dimenticate dal tempo, di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala, e di altre alle quali le ali sono state tarpate in maniera così brutale e ingiusta. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it oppure scrivete al nostro sito radio24.it. venite a trovarmi nei nostri social. A domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Simona Capodanno, con la collaborazione degli studenti del Master in Radiofonia della 24 ore Business School, Paolo Buzzone, Raffaella Dentice, Chiara Ferré, Elisa Pancaldi, Anna Poli.